parlano già. Tra i biancospini il vento mormora e va. Sembra un incanto il bosco sotto la luna. Favole appassionate narra per te. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco. Conoscerlo tu. Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Laggiù per gli alberi, intrecciato coi rami fior, c'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo?